Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Ci sono le società quotate in borsa. Di queste sappiamo o dovremmo sapere tutto, dei bilanci, dello stato patrimoniale, del loro indebitamento, della loro redditività. Tutte quelle informazioni che permettono di valutare quanto sia rischioso investire del capitale in una impresa. Il cosiddetto rating, insomma. Ma con l'esclusione appunto delle società per azioni, ottenere informazioni sulla solvibilità e solidità di un'impresa non è facile, soprattutto se questa ha sede oltre i confini nazionali. Eppure tutte le imprese hanno la stessa esigenza di trasparenza di un azionista quando si tratta di valutare l'affidabilità, per esempio, di un nuovo cliente o di un nuovo fornitore, soprattutto se di quelli pesanti. Ed è questa un'attività per le quali le grandi multinazionali naturalmente sono attrezzate, ma davanti alle quali le piccole e medie imprese si trovano invece quasi del tutto sprovviste di strumenti. Ed è per colmare appunto questo vuoto di informazione che è nata Speak, un'app sviluppata da Mode Finance, startup nata nel 2009 con sede all'area Science Park di Trieste, che appunto permette di ottenere in tempo reale informazioni su imprese di ogni tipo in tutto il mondo. Ne parliamo con Valentino Pediroda, che è vicepresidente e responsabile dello sviluppo dei modelli numerico finanziari dentro a Mode Finance ed è anche professore dell'Università di Trieste, dove insegna metodi numerici. Buonasera Pediroda. Buonasera a tutti quanti. Allora Pediroda, partiamo da questa difficoltà nel reperire le informazioni sulle aziende non SPA. Ecco, voi come fate? Allora, ogni azienda deve fornire i propri dati alle diverse camere di commercio, in Italia Camere di Commercio Italiana, in Germania alle Camere di Commercio Tedesche e via di seguito in tutti gli stati di tutto il mondo, Camere di Commercio o uffici per le tasse, dopo le cose cambiano un po' da stato a stato. Certo. Noi cosa facciamo? In ogni stato abbiamo delle aziende, nostre partner, che raccolgono i dati e ci rimandano e le elaboriamo internamente la nostra azienda. Ecco, mediamente qual è la qualità di queste informazioni di base? La qualità cambia in modo radicale da una parte all'altra per il mondo. In Italia direi che siamo assolutamente all'avanguardia da questo punto di vista. Le Camere di Commercio Italiana sono veramente number one. Due casi eclatanti sono sicuramente la Germania, in cui i dati sono pubblici, ma sono assolutamente in maniera veramente, veramente insufficiente, lo posso dire, o gli Stati Uniti, dove parte delle aziende quotate nessuna azienda deposita i dati di bilancio perché la situazione è assolutamente segreta. Ecco, addirittura segreta. Ecco, e quindi insomma capiamo che c'è un problema serio di trasparenza, tanto per cominciare, e che voi in qualche modo cercate anche di superare. Ecco, che tipo di output fornite? Quali sono le informazioni che arrivano alla fine tramite questa app? Quello che facciamo è valutare lo stato di economico finanziario delle aziende e quindi quello che valutiamo è il rating delle aziende. Quello che è importante è la trasparenza. Il rating viene sempre accusato di trasparenza. Di scarsa trasparenza, lei dice. Dentro Mode Finance noi riusciamo in modo molto semplice a far rappresentare non solo il rating, ma anche le ragioni che stanno dietro il rating. E poi abbiamo una parola d'ordine, democratizzazione delle informazioni. Ormai le aziende tutte le aziende devono avere in mano questo tipo di informazioni e quindi l'app Speak nasce proprio per le piccolissime aziende per avere gli stessi servizi delle multinazionali. Certo. Ecco, senta, il cuore di questo vostro progetto è un algoritmo proprietario per valutare, appunto, per tirare fuori questo rating dai dati che avete, che come abbiamo capito non sono neanche sempre tutti disponibili. Che cosa ci può dire diciamo di questa metodologia? La metodologia l'abbiamo chiamata MOR, che è l'acronimo di Multi Objective Rating Evaluation. Cosa facciamo? Noi andiamo a studiare l'azienda come viene studiato un sistema ingegneristico. Possiamo fare un semplice esempio, l'esempio di una progettazione di una nave da trasporto, un cargo. Quando si deve pre-progettare un cargo, siamo di fronte a delle macro scelte. Quanto lungo lo facciamo? 100-150 metri. Quanta è la velocità di crociera? 10 o 15 nodi? Quant'è la stazza? 10.000 tonnellate o 20.000 tonnellate? Quindi ci si trova di fronte a delle varie elementi. Ecco, solito il problema è che, come dire, se io allungo da una parte, perdo dall'altra, no? Ci sono dei cosiddetti trade-off. Certo, e come la barca, la nave ha la velocità, la statica di seguito, l'azienda cos'ha? La redditività, la liquidità, la copertura di interessi, gli aspetti qualitativi del management. Ecco, dato che siamo ingegneri, e abbiamo trasportato la metodologia della progettazione nella metodologia di valutazione dell'azienda. Va bene, grazie Pediroda. Grazie a tutti voi, buonasera. Ci fermiamo qui e appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.